cavaliere di un giallo sogno, avrei bisogno di parlarti ancora. Ciao, ciao, ciao, cavaliere di un giallo sogno, oggi ho bisogno di dirti una parola ancora. E se qualcosa sulla strada ti ha fermato ancora, chiamami, dimmi come stai. E se per caso dove corri trovi un'altra rosa, scrivimi, dimmi dove vai. E anche se non c'è niente di là, tu sai inventare con le tue mani maestà anche nuvole bianche da dove piove a metà. Ciao, cavaliere di un giallo sogno, avrei bisogno di dirti una parola ancora. E se qualcosa sulla strada ti ha fermato ancora, chiamami, dimmi come stai. E se per caso dove corri trovi